L'impianto complessivo della riforma incide sostanzialmente, ripeto sostanzialmente, sulle competenze e sui poteri del Consiglio Superiore della Magistratura e quindi incide sui rapporti tra poteri dello Stato. Perché dico, diciamo, che incide sostanzialmente sui poteri del Consiglio Superiore della Magistratura? Perché sostanzialmente sottrae numerose attribuzioni e competenze al Consiglio Superiore della Magistratura, attribuendole sostanzialmente al Ministro o a commissioni esterne al Consiglio Superiore della Magistratura. Tutto ciò accade sin dal momento precedente all'ingresso in magistratura. Tutto ciò, cioè, accade sin dal concorso di accesso in magistratura, laddove, solo per fare un esempio, tra la prova scritta e la prova orale, il candidato che dovesse superare la prova scritta è poi sottoposto a dei test psicoattitudinali. Non è chiaro nel testo licenziato alla Camera né il contenuto di questi test né soprattutto quale organo è competente a elaborare questi test. Temiamo che possa essere una commissione esterna al Consiglio Superiore della Magistratura e questo inciderebbe ovviamente, ecco, già sul profilo d'ingresso all'interno della magistratura medesima. Poi, per quanto riguarda il dottorato, cioè quella fase di formazione dei giovani magistrati prima che prendano le funzioni, anche lì c'è una gravissima incisione sui poteri e sull'attribuzione del Consiglio Superiore della Magistratura, perché è prevista una scuola della magistratura formata per massima parte da docenti non di nomina sostanzialmente del Consiglio Superiore della Magistratura, in cui la componente dei magistrati è estremamente ridotta. E ancora, il sistema dei concorsi è un sistema estremamente articolato e dettagliato, che comporta anche qui la previsione di commissioni, la cui composizione ci lascia molto perplessi. E qui soprattutto c'è il discorso che moltissimi magistrati saranno sottratti all'esercizio delle funzioni ordinarie perché impegnati nelle commissioni di concorso come commissari oppure ad essere esaminati. Questo sottrarrà delle energie preziose per lo svolgimento dell'attività giudiziaria. Ancora ovviamente la scelta definitiva dopo 5 anni che i magistrati dovranno scegliere se fare appunto i giudici oppure i pubblici ministeri. Di fatto questo introduce la separazione della carriera, separazione che non è prevista a livello costituzionale. Ancora, e posso continuare, l'attribuzione di un titolo preferenziale per i magistrati che svolgono funzioni dirigenziali all'interno del Ministero. Questo sottrae ancora un titolo di valutazione al Consiglio Superiore della Magistratura nelle attribuzioni degli incarichi direttivi all'interno dell'organigramma della magistratura medesima. Come vede sono molti punti, per non parlare poi di tutto il discorso dell'illecito disciplinare che sembrerebbe che viene tipizzato, ma in realtà si tratta di fattispecie che rimangono sufficientemente generiche e quindi con un amplissimo potere discrezionale del Ministro di poter incidere quindi sulla carriera dei magistrati. Come vede sono moltissimi gli aspetti che riguardano i giovani sin prima dall'ingresso in magistratura, poi i giovani magistrati e poi i magistrati nel corso della loro carriera. Tutto questo non può non trovarci d'accordo.